Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quanto è importante oggi dire alle bambine, alle donne di domani che possono farcela, che possono riuscire al meglio in tutto ciò che fanno. È fondamentale per prevenire discriminazioni e violenze, tema purtroppo più che mai attuale, promuovendo politiche di parità, ma anche per disegnare un mondo di prodotti e servizi che tenga conto al meglio della diversità, dell'identità di genere. Ecco perché in questa puntata parliamo di empowerment al femminile. E abbiamo deciso di farlo anche attraverso due icone che hanno ancora molto da dire all'universo femminile. I nuovi stili di consumo e di vita impongono un ripensamento degli oggetti della nostra quotidianità all'insegna di una cosa su tutte, la mobilità. Questo è il tema del Focus sui Trend. E poi riflessione finale dedicata a uno dei nostri temi clou, la crescita felice. Le donne e il loro cervello costituiscono un immenso serbatoio di potenzialità non sfruttate. Hanno dimostrato, infatti, capacità enormi e possono rivestire il ruolo che è sempre stato negato loro, quello di leader capaci di far fronte a problematiche prioritarie nel terzo millennio. Rita Levi Montalcini. A suggerirci la citazione la fondazione Beth Sheehan, prima fondazione italiana dedicata all'empowerment, cioè all'incoraggiamento al femminile, con l'obiettivo di fornire a bambine e ragazze in età preadolescenziale gli strumenti più adatti per sviluppare la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità e al contempo sensibilizzare sul tema famiglie, istituzioni, aziende, scuole, tutte quelle realtà insomma in grado di cambiare contesto, mentalità e modelli sociali. La sua fondatrice e presidente si chiama Marie Madeleine Gianni. Beth Sheehan è nata da un'intuizione. Circa 2 anni fa ho pensato che era opportuno di fare qualcosa per le bambine e diciamo che non ero convinta dal classico approccio di risoluzione di problemi. Quello che mi sarebbe piaciuto fare, che poi abbiamo realizzato, è invece un'iniziativa che investe sulle bambine, quindi con un approccio inverso di completo empowerment, così lo chiamano gli anglosassoni, che è il dare coraggio, dare forza alle bambine su una fascia di età che va tra gli 8 e i 12 anni, perché si ritiene in generale meglio toccare delle ragazze più grandi, quando invece noi pensiamo che la strada si disegni prima, su quella fascia di età. Quindi è importante per noi agire in un momento in cui non sono già segnati, tracciati i destini e dove i stereotipi e pregiudizi non sono ancora così marcati, ecco. Perché serve oggi fare empowerment al femminile? Che cosa si perde il mondo del lavoro, la società, se le ragazze, le donne di domani non si ritengono in grado di fare tutto quello che vogliono e che possono fare? Ma si perde tanta ricchezza, si perde proprio dell'individualità, delle potenzialità che non vengono espresse perché vengono, tra virgolette, tarpate prima. E questo è un grande peccato, al di là della crescita che può dare alle aziende. Poi è comprovato ormai che le aziende che hanno più presenza femminile anche a livello direzionale producono migliori risultati, ma al di là di questo è proprio una ricchezza della società in generale, un punto di vista diverso che probabilmente ci manca. Facciamo qualche esempio dei progetti che voi avete avviato, come agite poi nel concreto? Allora, noi intanto abbiamo lanciato diversi progetti su diversi filoni tematici. C'è il filone del corpo, quindi la consapevolezza e il benessere legato al corpo, il filone della mente, il filone delle tecnologie, dei mestieri, tipicamente mestieri atipici per le ragazze e il filone del contesto, che sia fisico o virtuale. E abbiamo confezionato dei percorsi per ciascuno di questi filoni. In questo momento a Roma c'è un percorso nel filone, tra virgolette, mente, che è in corso e che riguarda il tema della solidarietà, per cogliere l'importanza del fare gruppo in modo positivo, della competitività e del confronto positivo, e come questo ci dà strumenti per crescere meglio e anche affrontare gli ostacoli della vita in un modo, con un approccio diverso, ecco. Buongiorno, mi chiamo Anna e sono la vostra nuova professoressa. Oggi parleremo del cervello. Oh, che giornata oggi in ufficio! Indovina? Ho chiuso quel contratto importantissimo! Tra i primi brand a supportare la fondazione Beth She Can, Barbie, che con la campagna Puoi essere tutto ciò che desideri, la sentiamo in sottofondo, ha indagato il tema dell'immaginazione e dell'autostima delle bambine attraverso il gioco. Giulia Toso, brand manager Mattel. Allora, l'incontro con Beth She Can è stato quello che possiamo definire un vero e proprio colpo di fortuna. La persona giusta al momento giusto. Stavamo lavorando sul progetto di Barbie Award, abbiamo steso una lista di possibili ambasciatrici del messaggio Puoi essere tutto ciò che vuoi, e in quel momento abbiamo notato che mancava un'associazione che lavorasse su uno dei nostri principi base, sull'empowerment delle bambine. Navigando sul web notiamo Beth She Can. Quando abbiamo letto la loro mission, i loro obiettivi, ci siamo resi conto che sembrava proprio tagliata su misura per noi e per Barbie. Barbie, lo sappiamo, ha intrapreso nella sua vita un sacco di carriere, circa 150, e non esiste al mondo niente che Barbie non possa fare. Recentemente sono stati lanciati nuovi look, 3 nuove silhouette per Barbie, curvy, tall e petite, per tutte le tipologie di donne. Possiamo dire che, pur nel solco della tradizione, è una nuova fase per il brand, quella che stiamo attraversando? Beh, direi di sì. Direi che siamo entrati proprio un po' in un nuovo capitolo. Questo come mai? Perché il brand Barbie si sta evolvendo per offrire alle bambine una linea di prodotti che effettivamente dia loro maggiori possibilità di scelta, ma anche che allo stesso tempo rifletta meglio il mondo che le bambine vedono attorno a loro, quello che vivono nella vita di tutti i giorni. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Da Barbie a Marilyn, un'altra icona di femminilità che può raccontare una storia diversa da quella che si è sempre raccontata. Questo è l'intento della mostra Marilyn Monroe, la donna oltre il mito, allestita fino al 19 settembre a Palazzo Madama a Torino. Ne abbiamo parlato con Patrizia Asproni, che è la presidente della Fondazione Torino Musei. Palazzo Madama è forse l'unico museo, chiamiamolo così, dedicato alle donne d'Europa. Marilyn Monroe, icona di un'epoca ancora vivissima nell'immaginario collettivo, come si usa dire, ha cambiato il modo di essere donna, di essere attrice, di essere anche diva, e quindi abbiamo pensato che Palazzo Madama fosse il luogo ideale per raccontarla nell'anniversario della sua nascita. Oggi avrebbe avuto 90 anni, era un personaggio straordinario che ha deciso che cosa voleva essere e che cosa voleva fare. Che cosa racconta alle donne di oggi una figura come quella di Marilyn Monroe? Intanto una grande audacia, una grande consapevolezza di sé, perché era una donna fragile, è vero, è stata dipinta soprattutto come una donna fragile, ma in realtà era una donna che ha costruito scientemente la sua immagine. Lei ha deciso di mettere per la prima volta una tuta di jeans da operaio e farsi fotografare con la tuta di jeans, creando immediatamente una moda. Ha creato la sua moda, che poi è stata seguita da milioni di donne nel mondo, è diventata appunto un'icona di stile, era una image maker di se stessa e ha creato il personaggio per avanti rispetto al suo tempo, e questo è evidente appunto dagli oggetti che ci sono in mostra. È una lettura molto interessante, molto intima e anche, come dire, la lettura di un'epoca e di che cosa le donne erano in quell'epoca e come lei abbia voluto sovvertire le regole di quell'epoca. Essere e avere. È strano. Si spostano sempre in gruppi di cinque elementi questi programmatori. Ce n'è sempre uno pallido e magro, uno asiatico basso e smilzo, uno grasso con la coda di cavallo, un altro con la barbetta strana e poi uno dell'India dell'Est. Sembra che continuino a cambiare gruppo finché non trovano quello giusto. Focus sui trend. Come cambiano gli oggetti della nostra quotidianità sulle scia delle nuove abitudini di consumo e di vita? Risparmio di tempo, spazio e denaro, semplificazione, ottimizzazione delle risorse, condivisione e partecipazione, solo per citare alcune delle parole chiave del cambiamento, guidano l'offerta di nuovi prodotti e servizi. Prodotti e servizi adottati in primis dai cosiddetti millennials, all'insegna di un consumo sempre più nomade, in movimento. Questo lo scenario che ha esplorato per noi Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, bentrovata. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Allora, iniziamo dai nuovi prodotti simbolo di questa mobilità urbana e non. Sì, come hai detto tu, questi prodotti sono quelli più utilizzati, diciamo, più importanti, soprattutto per la generazione dei millennials, cioè i giovani che hanno tra i 18 e i 34 anni e che ormai sono diventati adulti, anzi fanno parte della forza lavoro, no? E in futuro ne rappresenteranno un terzo nel 2020, secondo appunto le stime globali. Negli Stati Uniti sono una generazione che ha già superato quella dei baby boomer, sono più di 75 milioni di individui e in Italia 11 milioni. Ed è con loro che cambiano appunto le abitudini di vita, le necessità di lavoro e gli oggetti di consumo, perché il loro stile di vita è flessibile e mobile per necessità, per la crisi, ma anche per la loro diversa mentalità. Jungle Jacket è una giacca per il ciclista urbano, quello che nessun evento atmosferico costringerà mai a prendere l'auto. È stata progettata in Italia da un team appunto di giovani millennials a Torino, viene presentata da loro come il coltellino svizzero delle giacche da bici. Perché ricordiamolo, la bicicletta è il mezzo simbolo della loro mobilità. Sì, assolutamente, i giovani sono molto più, soprattutto nel contesto metropolitano, legati agli spostamenti in bicicletta o con i mezzi o con il car sharing. La auto di proprietà, i mezzi di proprietà appunto sono molto meno diffusi che per le generazioni più grandi, più adulte ancora. E Jungle Jacket è appunto una giacca super accessoriata, impermeabile, antivento, ha un cappuccio panoramico con una visibilità molto ampia per i lati trasparenti. Ha degli indicatori di direzione catarifrangenti, le tasche orientate e sulla schiena ha anche una vela per parare gli schizzi, no? Quindi per ogni evento atmosferico. C'è persino un fischietto stampato in 3D e grazie alla tecnologia NFC integrata nella manica ha persino la funzione di Smart Pay, cioè basta avvicinare, no, il braccio al terminale di pagamento e si esegue la transazione. Questa giacca che è stata lanciata su Epela, il principale portale italiano di crowdfunding, aveva a marzo già raccolto più del quadruplo dei finanziamenti richiesti e costerà più o meno 180 euro. Quindi non è ancora in commercio? No, ancora no. Un accessorio interessante, sempre per quanto riguarda il viaggio e gli spostamenti, è la valigia Nate, in questo caso però per i viaggi a medio-lungo raggio e non tanto gli spostamenti urbani, no? Quindi per i nuovi cosmopoliti. La società che l'ha creata è di New York e ha ideato questo design molto ingegnoso, no? Che permette di avere un trolley solido, leggero, resistente quando si è in viaggio, ma che poi si può appiattire e infilare anche in spazi molto piccoli, molto stretti quando non serve, quindi è perfetta, no? Per le case piccole che molto spesso i millennials abitano. Nate è anche smart perché è dotato di GPS e quindi si può seguire ogni suo spostamento sul proprio smartphone. Come sempre le immagini sulla nostra pagina Facebook, nuovi modi di spostarsi, di viaggiare e anche di lavorare in mobilità, Isabella. Il cosiddetto smart work impone un ripensamento dei prodotti e degli spazi dedicati a questi nuovi modi di declinare le professioni. Moleskine ad esempio, no, ha lanciato recentemente lo Smart Writing Set, cioè un kit che consente a chi vuole continuare ad usare i classici strumenti di lavoro analogici, quindi carta e penna, di farlo, ma di ottenere istantaneamente degli appunti che sono digitali. Un sistema di tre elementi, cioè un'agenda che sembra un taccuino classico di quelli di Moleskine con la copertina nera, ma in realtà poi all'interno è composto da fogli di carta micropuntinata. Insieme a questa agenda c'è la Moleskine Pen Plus, una smart pen in alluminio che ha una piccolissima videocamera sulla punta e l'applicazione per smartphone, la Moleskine Notes. Cosa succede? La micro videocamera traccia i movimenti della penna sulla carta e sfrutta il reticolo dei punti stampati sulla pagina, che così garantiscono una precisione massima. Poi si collega la penna allo smartphone via Bluetooth e l'applicazione converte la scrittura a mano in un testo digitale, quindi con anche i disegni e tutto. Un altro aspetto di cambiamento appunto legato al lavoro di cui hai parlato è quello degli spazi e del fenomeno del co-working, a questo punto che è l'espressione forse più concreta, no, dell'economia collaborativa, perché le comunità e anche i singoli si incontrano in spazi condivisi. In Italia due realtà molto interessanti sono sicuramente quella di Talent Garden, che è il principale network europeo di co-working, o anche la realtà più recente di Copernico. Dal co-working al co-living, in un certo senso, perché questa formula flessibile, smart per il lavoro, sta contagiando anche la formula invece residenziale, abitativa. Sono formule che in futuro potranno sicuramente anche migliorare il paesaggio urbano, no? Se si pensa agli spazi vuoti di edifici in disuso, abbandonati, che rappresentano un grande problema, no, nelle metropoli di oggi, ma potrebbero essere un grande potenziale. E a questo proposito lo studio di architettura Kreiswanger a Rotterdam ha ideato The Hub, che è il primo prototipo di un sistema modulare proprio da inserire in questi grandi edifici preesistenti. The Hub contiene tutti i servizi necessari di una casa, che però vengono compattati in unità prefabbricate di circa 15 metri quadrati, che sono molto facili da smontare. L'unità base contiene una cucina, un bagno, poi si può aggiungere naturalmente l'unità notte, e sono unità che hanno incorporati all'interno il sistema di riscaldamento, un sistema audio, la connessione internet, e hanno tutti un'unica uscita, no, di cavi da collegare appunto all'immobile dove viene inserito. L'ultimo ambito che hai esplorato per noi è l'alimentazione. Sì, perché sono nati, stanno nascendo prodotti più adattabili, no, più flessibili, per esempio, da portare con sé facilmente. E in Brasile la Pepsi ha creduto e ha supportato il progetto di una startup nata in realtà dall'idea di un suo manager interno, e ha messo a punto Drinkfinity, un kit componibile di bottiglia molto comodo da portare con sé e predisposto per poter aggiungere degli integratori naturali all'acqua. Faccio un esempio: la capsula energetica ha la caffeina e le vitamine del complesso B, ma poi ci sono, non so, una capsula per lo sport, una per il relax di fine giornata e altre ancora. Un altro fenomeno interessante legato all'alimentazione è quello che si sta diffondendo nella Silicon Valley, no, tra le aziende high-tech, perché lì sempre più persone hanno iniziato a sostituire parte della propria alimentazione con dei liquidi creati in laboratorio e che vogliono essere un'alternativa molto comoda e molto veloce al pasto classico. È una cosa che in Italia avrà sicuramente difficoltà ad attecchire, visto che siamo un paese di buon gustai, ma che in America ha già avuto successo. Per esempio la bevanda Soylent, beverone direi io, che vuole essere completa a livello nutrizionale. È stata ideata nel 2013, è in vendita dall'anno scorso ed è considerata appunto il cibo del futuro. Se ne è parlato moltissimo, se ne è discusso anche, ovviamente criticato, gli amanti degli spaghetti saranno inorridendo, però sicuramente il segnale anche questo di un cambiamento. Grazie Isabella Guaitoli, alla prossima. Alla prossima, ciao. Il consumautore. E questa sera raggiungiamo in movimento, diciamo così, anche il nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Allora, in movimento perché stai portando in giro per l'Italia il tuo Festival della Crescita, un festival che, ne abbiamo parlato anche altre volte, chiama a raccolta le energie creative, propositive, alternative per raccontare e stimolare una crescita felice. Francesco, aggiornaci su questo tour in giro per l'Italia. Volentieri Maria Luisa, siamo partiti a ottobre dello scorso anno, come ricorderete, dal Palazzo delle Stelline di Milano, quindi dal luogo in cui Leonardo da Vinci ha lanciato le visioni sul futuro, e poi ogni mese abbiamo incontrato una città, proprio per creare questa sorta di circolo virtuoso tra i luoghi, le loro specificità e invece una visione paese. Siamo stati a Roma, dove abbiamo avuto il Luis & Labs e Wind come partner, Bologna con l'Urban Center, Torino con il Circolo del Design, quindi in ciascuna città abbiamo sviluppato dei temi legati ai luoghi che ci ospitavano, e a Lucca, ultima tappa, siamo stati ospiti di Sofidel. C'eravamo anche noi, abbiamo intervistato Luigi Lazzareschi, che è la di Sofidel. Ecco che cosa ci ha detto. Siccome l'azienda, diciamo, ha avuto progressivi 50 anni di crescita, abbiamo pensato che questo tipo di festival si sposava molto bene alla nostra storia. Da una piccola azienda di un paese qui vicino a Lucca, oggi l'azienda è una relativamente piccola multinazionale presente in 13 paesi europei e negli Stati Uniti. Ci teniamo alla nostra italianità e cerchiamo anche di spingere altre imprese italiane a diventare un attimino più grandi e un po' più multinazionali di quanto oggi non lo siano. Credo che gli imprenditori e le aziende italiane abbiano molto di più da dire di quanto oggi le aziende italiane e gli imprenditori italiani pensino di se stessi. Credo che manchi nell'imprenditoria italiana in tanti imprenditori un po' di fiducia e un po' anche di coraggio. Credo che specialmente nell'industria manifatturiera di base le aziende italiane abbiano molto da dire in tanti paesi, non solo quelli in via di sviluppo, ma anche in quelli più sviluppati. Francesco, citiamo le prossime tappe e poi diamo i riferimenti dove possiamo trovare tutte le informazioni. Certamente, la prossima tappa sarà nel profondo sud, sarà a Siracusa l'1 e il 2 luglio e saremo insieme alle feste archimedee, e poi continueremo con Civitanova Marche e poi Firenze l'8 settembre, poi Bari, Venezia, Brescia e ritorneremo a Milano a metà ottobre. Ecco, quindi tutto questo si può seguire in tempo reale sul sito del festival, che è www.festivalcrescita.it, ma soprattutto lasceremo traccia, ecco, su questi territori, e quindi speriamo davvero che ci possano seguire con entusiasmo. Grazie Francesco, però non mi abbandonare, domenica prossima ti aspetto in studio ovviamente. Ma certo, ovviamente con molto piacere, grazie a te Maria Luisa e a tutti.